sfida ideologicamente proibita agli schemi d'attacco. Il palazzo risponde col tacco. Il tempo sta scadendo ormai, tieni palla dai, il pareggio mai non lo firmerai, perché non cambi mai. Il sogno è ancora intatto e tu lo sai, perché non cambi mai. Il sogno non si avvera quasi mai. Si chiama corrida, c'è la testa del toro e nessuno ti chiede perdono, la folla sta impazzendo.